sega, vomito con l'offerte lega, cervello buttato con la motosega. Sono pazzo, adesso prendo ammazzo mamma, insieme a Eric Amante, tutta quanta la banda. E voi figli di puttana, uscite di casa, prendete questo disco e bruciate di strada. Sono epilettico, ma non c'entra la demenza, tremo perché sono in crisi di astinenza. Il mio nome è Donatello, sniffo e fumo cocaina, perché Morgan ha detto che incrina la malattia. Devo correre via, mi insegue la polizia, ho sparato alla signora dei Filippi Maria. Io valgo zero, fanculo, sono senza futuro e non cerca nessuno, nessun cazzo d'aiuto. Devi stortene muto, dammi solo un minuto, non chiamatemi artista, sono un fottuto rifiuto. Se sputi sul palco per non darmi spazio, manda a fanculo Mega, non me ne frega un cazzo. Morirò ragazzo schiantato contro un palazzo, perché guido come un pazzo, non me ne frega un cazzo. Il mio fottuto rap non ascolti Top Ten come Vasco Rossi Omega, non me ne frega un cazzo. Che cazzo vuoi che dica, a posto dei miei pezzi, ma sti pezzi di vita, non me ne frega un cazzo. Saddam resti lì se tu mi guardi così, non l'ho detto solamente per venderti il CD. Son cazzate che io scrivo quando sto sotto trippo, quando guida c'entra loro ubriaco di JMB. Odio quella puttanella di Bill del Tokyo Hotel e tutti i componenti froci della sua fottuta band. Strappo i tre da suo fratello, lo piego sul suo scappello, e visto che amo lievo, gli spappolo il cervello. Vuoi dirmi che ne pensi? Donatello se ne frega, scopo mi stronza, sono in vendica Omega. Voi mi date addosso, a me fotte una sega, sono psicopatico come il sergente Lega. E se vuoi anche tu, spreca tempo su Facebook, su MySpace, YouTube, sputtane il mio crew. Non me ne frega un cazzo, stanotte lo ammazzo, ma tentati in bagni perché sputo mentre canto. Se sputi sul palco per non darmi spazio, manda a fa culo Mega, non me ne frega un cazzo. Morirò ragazzo schiantato contro un palazzo, perché guido come un pazzo, non me ne frega un cazzo. Il mio fottuto rap non lo scopo di Top Ten come Vasco Rossi Omega, non me ne frega un cazzo. Che cazzo vuoi che dica, a posto dei miei pezzi, passi pezzi di fibra, non me ne frega un cazzo. Non è come tu credi, al lavoro io ci vado con il pullman, baby. Passo notte a pulire i vetri di una cucina mobile, a pensare perché continuo questa vita ignobile. Le serate alcoliche, mattinate con le coniche, vomito su mixer nelle stazioni radiofoniche. Scava nelle dame se mi vuoi ascoltare, non mi passano in radio perché non so leccare. Mi sto per suicidare con un farmaco scaduto, e metti capo Mega, dottor Splatter deceduto, perché sono fottuto mentre tu sei vincitore. Oggigiorno alla prigione un plotone d'esecuzione, muoio a colazione ingerendo una soluzione di pillole abortive in un bicchiere di Negrone. Tu vuoi la soluzione, allora cercami di imitare, scopa baby uccidi ma non farti mai arrestare. Se sputi sul palco per non darmi spazio, manda a fa culo Mega, non me ne frega un cazzo. Morirò ragazzo schiantato contro un palazzo, perché guido come un pazzo, non me ne frega un cazzo. Il mio fottuto rap non lo scopo in Top Ten come Vasco Rossi Omega, non me ne frega un cazzo. Che cazzo vuoi che dica, a